Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Poco prima della mezzanotte del 20 agosto 1968, un corpo di spedizione dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati del Patto di Varsavia invade la Cecoslovacchia. Migliaia di soldati, carri armati russi che occupano il paese arrivano fino al cuore di Praga, la piazza San Venceslao. È la fine della cosiddetta Primavera di Praga, un tentativo politico di convertire la ventennale tirannia stalinista in quello che il leader, che allora era Aleksandr Dubček, il primo segretario del Partito Comunista Ceco, chiamava il socialismo dal volto umano, direi un ossimoro. Dopo appena 7 mesi di liberalismo, di tentativi di riforme, la volontà dei cecoslovacchi di ribellarsi al dominio sovietico viene stroncata con la forza. La popolazione non ci sta. Quella notte tutti scendono in strada, cercano di capire cosa stia succedendo. Nella capitale non c'è una via che non sia affollata di gente in cerca di notizie. Piazza San Venceslao è piena di carri armati, i soldati sovietici sono lì e ci sono i cittadini cecoslovacchi che sono decisi a difendere la loro libertà. E i giornalisti stranieri presenti in città arrivano sul posto e notano subito un uomo. È un uomo pelato, non giovanissimo, che si è arrampicato sul basamento della statua di San Venceslao e parla alla folla e denuncia furiosamente quell'invasione. E la folla grida ai russi: ascoltatelo, ascoltatelo, ascoltate Emil, Emil vi parlerà, vi dirà cos'è giusto, perché lui è il nostro campione. E sì, perché l'uomo pelato abbracciato alla statua di San Venceslao, che la folla acclama come suo portavoce in questo frangente tragico, è Emil Zatopek, uno dei più grandi atleti della storia dell'uomo. Pochi anni prima era un campione straordinario, lo chiamavano la locomotiva umana, deteneva un numero impressionante di record mondiali, insomma è un eroe nazionale. E lì c'è la moglie di Zatopek, Dana, campionessa olimpica anche lei di lancio del giavellotto, che è presente col marito in quella piazza, in piazza Venceslao, e anni dopo racconterà quella notte tremenda. Emil si rivolse direttamente ad alcuni soldati russi chiedendo loro cosa stessero facendo. Gli risposero che erano lì per aiutare i cecoslovacchi a salvarsi dalla controrivoluzione di Dubček. Altri non sapevano nemmeno in quale paese si trovavano. Erano solo dei poveri soldati, troppo giovani e troppo indottrinati. Si avvicinò un ufficiale. Emil si presentò, gli elencò tutte le sue vittorie olimpiche e poi gli disse che eravamo tutti arrabbiati per quella invasione. L'ufficiale non proferì parola, ma alla fine gli strinse la mano. Fu una muta ammissione di quanto fosse sbagliata la loro azione militare. Purtroppo nessuno avrebbe mai potuto fermare il corso della storia quella notte, neanche un eroe nazionale, neanche un pluricampione olimpico. I sovietici si riprendono il potere, Dubček verrà arrestato, viene condotto a Mosca, viene obbligato a firmare un protocollo d'intesa, a fare un'autocritica, viene distrutto come politico e come uomo, tornerà a Praga, verrà umiliato, impiegato come manovale, verrà riabilitato solamente nel 90 con la fine dell'incubo, con la rivoluzione di velluto e poi con lo scioglimento della Unione Sovietica e la caduta del muro di Berlino. Ma noi adesso stiamo parlando di quell'altro, di quell'ex campione olimpico, l'uomo arrampicato sulla statua del santo, un uomo che già quando aveva 20-25 anni ne dimostrava 40, quindi adesso sembra un uomo malconcio e poco incisivo, e invece è un grande uomo, è lui, Emil Zatopek, il nostro protagonista di oggi, la locomotiva umana. È un campione inarrivabile delle corse sulla lunga distanza e tuttora nessuno è riuscito a ripetere le sue imprese straordinarie, ma è anche un uomo eccezionale sul piano umano. È una storia che vi stupirà. Emil Zatopek Nasce a Koprivnice in Cecoslovacchia, nella regione della Moravia, il 19 settembre 1922. È il sesto di 8 figli, è una famiglia umile, sostenuta solo dal padre che è calzolaio e non ci sono soldi. Lui deve lasciare gli studi, deve andare a lavorare a 16 anni quando trova impiego in una fabbrica di scarpe. È proprio qui che il destino dà il via alla sua carriera di corridore, perché il suo responsabile è un appassionato di sport, della corsa, organizza una gara aziendale un po' fantoziana, iscrive anche Emil, lui protesta, non ha mai corso, dice che non sta bene, che ha male a un ginocchio, ma il capo lo spedisce dal medico per una visita di controllo e il responso è inappellabile, sta bene, può, anzi deve correre. E lui si schiera al via, non ha nessuna motivazione, corre per compiacere il suo capo, per non perdere il posto di lavoro, eppure arriva secondo. Non ha forzato, i suoi avversari hanno dato il meglio, sono persone che si allenano regolarmente e è un risultato inaspettato che gli fa capire che forse lui è portato alla corsa, chissà come si chiama quello che ha vinto quella gara, quello che per una volta ha battuto Zatopek, ma da quel momento lui comincia a allenarsi, gli piace, lo fa ogni volta che è libero, appena esce dalla fabbrica, si allena la domenica e decide di cambiare lavoro. A 20 anni entra in accademia, diventa un militare di professione e lì allenarsi è più semplice. Anche quando scoppia la seconda guerra mondiale lui si abitua a correre con gli scarponi militari, quindi insomma immaginate la fatica, come correre con due ferri da stiro ai piedi, è una tecnica anomala ma che darà grandi risultati. Il falco e il gabbiano. Emil Zatopek attraversa la seconda guerra mondiale praticamente di corsa, perché ha un fisico forte, resistente, è fortunato, se la cava, sopravvive al conflitto, continua dopo la guerra la sua carriera militare, però si sta allenando, ormai la corsa gli piace, è diventata la sua ragione di vita e le sue sessioni di corsa diventano impressionanti, almeno 4 ore al giorno su qualsiasi tipo di terreno, di giorno, di notte, in qualsiasi condizione atmosferica, e viene inventato in quel periodo quello che oggi si chiama interval training, sono delle ripetute, 400 metri, poi 200 metri di recupero, poi altri 400 metri a correre, insomma è un metodo di allenamento che viene utilizzato molto spesso oggi, soprattutto dai mezzofondisti. E il nome di Emil Zatopek comincia a circolare negli ambienti della corsa. Nel 1944, lui ha 22 anni, comincia a stabilire il record nazionale nei 2000, nei 3000, nei 5000 metri, comincia a segnalarsi anche a livello internazionale, agli europei di Oslo nel 1946, arriva quinto nella finale dei 5000 metri, poi partecipa ai giochi interalleati di Berlino. Praga in quegli anni è isolata, la ferrovia è distrutta, le strade sono dissestate dalle bombe e lui deve andare a Berlino. Cosa fa? Ci va in bicicletta, 354 km in condizioni assurde, diciamo 354 km di ciclocross, ma lui ci arriva a Berlino e partecipa e vince i 10.000 metri e tutti cominciano a parlare di lui, anche perché il suo stile di corsa non è l'elegante falcata che ci si aspetta da un atleta vincente, perché lui è sgraziato, è goffo. Andate a vedere i filmati di Zatopek che corre, è l'immagine della sofferenza, corre con la testa piegata all'indietro, ha i gomiti vicini al corpo, ansima, sbuffa come una locomotiva, infatti lo chiamano la locomotiva umana. Lui ha una smorfia di dolore che è costantemente dipinta sulla faccia, i giornalisti gli chiedono il perché di quella smorfia, lui risponde in questo modo: sapete, qui non facciamo ginnastica o pattinaggio artistico. Imparerò ad avere uno stile migliore quando si giudicheranno le gare in base alla bellezza dello stile. Ma fin quando si tratta di velocità, va bene così. Non ho abbastanza talento per correre forte e sorridere allo stesso tempo. Insomma, si intuisce già la personalità di Zatopek, la stoffa dell'atleta, è uno destinato a grandi cose. Arriviamo al 1948, si svolgono i primi giochi olimpici del dopoguerra, siamo a Londra, lui è una speranza per la formazione cecoslovacca e tutti sperano in lui, però lui ha ancora veramente poca esperienza internazionale. La competizione olimpica ha stroncato, come dire, il carattere di molti, e poi ci sono gli atleti degli Stati Uniti e soprattutto quelli dell'Unione Sovietica, e lui invece è elettrizzato da questa atmosfera. Era una liberazione dello spirito trovarsi là. Dopo i giorni bui della guerra, fu come se il sole fosse finalmente uscito fuori. Improvvisamente non c'erano più frontiere, nessuna barriera, solo gente che si incontrava. Erano uomini e donne che avevano perso 5 anni di vita, ma ora erano tutti lì. È una bella frase questa, e soprattutto perché a Londra c'è effettivamente una bella atmosfera. L'incubo della guerra è passato, c'è un desiderio di rinascita, di vita, e direi anche d'amore. E proprio nel caso di Emil Zátopek l'amore ha un ruolo fondamentale, perché lui vede per la prima volta Dana Ingrova, un'atleta molto bella, cecoslovacca anche lei, lanciatrice del giavellotto, si innamora, la corteggia, e poi c'è una strana coincidenza: entrambi sono nati il 19 settembre 1922, hanno poche ore di differenza, e anche a Dana lui non dispiace. Così i due si sposeranno l'anno dopo, ovviamente lo stesso giorno, il 19 settembre. Insomma, a Londra Emil Zátopek conosce la vera felicità, perché trova l'amore, quello vero, perché rimarrà sposato con Dana per tutta la vita, per oltre 50 anni, e conquista 2 medaglie, l'argento nei 5.000 metri dietro al belga Gaston Reif, ma soprattutto vince l'oro nei 10.000 metri. Nel 51 lui è il primo atleta al mondo a scendere sotto l'ora nei 20 km e nel 54 sarà ancora il primo a scendere sotto i 29 minuti nei 10.000. Insomma, Zátopek nella sua carriera sta facendo grandi cose, ma si sta avviando a compiere la straordinaria impresa che lo vedrà protagonista ai giochi del 52 a Helsinki. Ci sono molti atleti nella storia dello sport mondiale che sono entrati nella leggenda per aver compiuto imprese eccezionali al limite delle capacità umane, ma non sono molti quelli che hanno continuato a detenere il loro primato per tanti anni, e tra questi c'è Emil Zátopek, perché quello che lui ha fatto nel 1952 non è ancora riuscito a farlo nessuno. Nessuno ha eguagliato l'impresa della quale stiamo per parlare. Ha infranto un numero incredibile di record mondiali nei 5.000, nei 10.000, anche nei 20 km. Lui ormai non è solo un eroe nazionale, ormai il mondo lo conosce, ormai è lui il personaggio atteso a Helsinki. La locomotiva umana dovrà confermarsi lì in Finlandia. Lui arriva e non è più un ragazzo, ha 30 anni, è lì con la moglie Dana, ha 30 anni peraltro, insomma, un corridore, comincia a entrare in una fase generalmente di declino, ma lui si è allenato molto e la leggenda vuole che lui corra tutti i giorni trascinando dietro di sé un copertone legato in vita. Alcuni hanno giurato di averlo visto correre portandosi la moglie sulle spalle, ma quello lo abbiamo fatto un po' tutti nella vita. Da uno come lui c'è da aspettarsi qualsiasi cosa, ma nessuno avrebbe mai scommesso su quello che Zátopek riesce a realizzare alle Olimpiadi di Helsinki. È il risultato più straordinario di tutti i tempi. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando dello straordinario atleta Emil Zátopek, quello che è stato soprannominato la locomotiva umana, perché sbuffava in corsa, perché sembrava corresse come se avesse un cappio al collo, scoordinato, sgraziato, con quell'espressione di agonia stampata sul volto, un'espressione che in qualche modo lo fa amare ancora di più dal pubblico. E siamo arrivati a quelle incredibili Olimpiadi Helsinki 1952. Lui a Londra aveva vinto un oro e un argento, ma adesso tutto il mondo lo sta aspettando e lui è lì con sua moglie Dana, che gareggia nel lancio del giavellotto. Lui è un eroe, ma soprattutto è l'uomo da battere. Partono i 5.000 metri, lui a 200 metri dall'arrivo è ancora quarto, sembra perduto tutto e invece con una straordinaria progressione supera in volata i suoi avversari, la folla è in delirio, lui va a vincere il primo oro. Il commentatore cecoslovacco non crede ai suoi occhi, non è in grado quasi di fare la telecronaca. Emil Tretira stava svoj unik, je na jednej rovinky to zážem, dá to pek prvý. Šetovitik padá, do cíle zbývá necelých 100 metrů. Emile, je s tebou všechny náš lid a dá to pek letí. Beh, ci commuoviamo anche noi, e intanto che Zatopek vince il suo oro olimpico, la moglie Dana Zatopkova si aggiudica un'altra medaglia d'oro e nel lancio del giavellotto la Cecoslovacchia esplode, marito e moglie che vincono alle Olimpiadi, sono la coppia olimpica, la foto dei due che si scambiano un appassionato bacio ai bordi della pista fa il giro del mondo. E poi ci sono i 10.000 metri, e qui Zatopek, forse spaventato dal fatto che è riuscito a vincere i 5.000 in volata, cambia tattica, prende il comando, se ne va e vince senza mai venir superato. Batte il suo eterno rivale, ma anche amico, il francese Alain Mimoun. Here's the start of the 10,000 meters, our first action pictures from Helsinki. And it's soon Zatopek, the incredible Czech, out in front, leading Mimoun of France and Piri of Britain. Here's the finish, as the amazing Zatopek laps one after another to beat his own record by 42 seconds. Due ori olimpici in pochi giorni, e già vincere i 5.000 e i 10.000 è una cosa che è successa molto raramente, ma Zatopek non è uno che si accontenta. Può tentare l'impresa che lo consacrerà alla storia. L'ultimo giorno del gare d'atletica, il 27 luglio, si corre la gara per eccellenza, la maratona. Bene, Zatopek la maratona non l'ha mai corsa, quei 42 km e 195 metri lui li ha sempre visti fare dagli altri, però detiene i titoli mondiali dei 20 e dei 30 km, quindi tutto sommato può anche tentare. E lui lo fa. C'è un favorito, certo, è un campione inglese, è il detentore del titolo, si chiama Jim Peters. Bene, lui dice, io sto con lui e poi vediamo cosa succede. Si iscrive a una maratona che non ha mai corso in vita sua. Pettorale 903 si aggira tra gli atleti pronti per la gara. Prima dell'inizio cercai il numero 187. Andai da lui e gli dissi, come va? Piacere. Sei Peters? Sì, sono Peters, rispose. E io sono Zatopek, dalla Cecoslovacchia, e sono molto felice di conoscerti. Ti va bene se corriamo insieme? Mi misi al suo fianco. A metà del tragitto ero distrutto. E così gli chiesi, ma non stiamo forzando troppo? Non stiamo andando troppo veloci? Lui mi rispose, no, no, anzi, dovremmo correre di più. Mentiva, ma io gli credetti e così accelerai. Eh sì, Jim Peters vuole stroncare psicologicamente il suo avversario, ma questo gesto di furbizia in realtà gli si ritorce contro, perché Zatopek dice, ah sì, e allora corriamo più forte, e quindi prende il largo. Peters cerca di stargli dietro, ma ormai Zatopek sta correndo come uno che fa i 5.000 metri e sta correndo la maratona. Così Peters crolla in preda ai crampi, non riuscirà nemmeno a concludere la gara, e Zatopek continua con la sua accelerazione dentro. Entra vittorioso nello stadio di Helsinki in perfetta solitudine, e questo è l'urlo della folla che lo accoglie. Another grueling race gets underway with the 26 mile marathon, the all-time classic of the Olympic Games. The dramatic figure this year is Emil Zatopek of Czechoslovakia, after setting a new Olympic record of 2 hours 23 minutes 3 and 2 tenths seconds. A great marathon that will stand out in the annals of the Olympic Games. E Zatopek batte il record precedente di Peters di 6 minuti, avete capito bene, batte il record del mondo di 6 minuti. Il secondo classificato è un argentino, si chiama Reinaldo Gorno, entra nello stadio quando lui si è già cambiato d'abito, ha già baciato la moglie, si è perfino mangiato una mela ed è lì a aspettare gli altri che stanno correndo. La notizia della impresa di Zatopek, 3 medaglie d'oro nelle 3 specialità della corsa di fondo, è una notizia incredibile, fa il giro del mondo, tutti ne parlano, gli specialisti sanno che sarà quasi impossibile poter eguagliare un risultato del genere, e non credo che ci riuscirà mai più nessuno. Emi Emil Zátopek è l'eroe nazionale e lui e Dana sono la coppia olimpica che ha dato lustro alla Cecoslovacchia. A lui viene riconosciuta la grandezza, anzi l'unicità dell'impresa. Negli anni successivi lui continua a infrangere i suoi record. A Melbourne si presenta nel 56 a 34 anni, partecipa per onor di firma per continuare, come dire, a mostrare al mondo la sua leggenda. L'anno seguente si ritira e viene accompagnato da una gloria immortale. Ma la vita continua, lui prosegue nella sua carriera di militare, arriva al grado di maggiore, come ovviamente tutti, è membro del Partito Comunista, diventa una figura influente perché lui e sua moglie sono degli esponenti di spicco della dissidenza ceca, perché nel momento in cui Dubček cerca di ammorbidire il socialismo, loro appoggiano l'ala democratica del partito e così lui diventa un aperto sostenitore della primavera di Praga. Inizia il periodo che va dal gennaio all'agosto del 68, che è quel sogno del popolo cecoslovacco che verrà spezzato in maniera così brutale. Tanto per farvi capire Zátopek cosa fosse, cosa rappresentasse per la Cecoslovacchia quest'uomo, ascoltate il racconto di Richard Asquith, autore di una bellissima biografia di Zátopek che si chiama Oggi moriamo un po'. È la frase che Zátopek usava prima di iniziare i suoi terribili allenamenti. L'autore racconta un episodio rivelatore di quanto fosse famoso Zátopek. Quando correva, era il più grande eroe nazionale di tutti i tempi, il più amato in Cecoslovacchia. Dopo il 1952 divenne lo sportivo più celebrato al mondo. Non poteva andare da nessuna parte senza che qualcuno lo fermasse e gli chiedesse un autografo, una foto. Non so se vi ricordate Ron Clark, il grande corridore australiano. Era andato a fargli visita a Praga nel 1966 e Emil lo aveva portato a fare shopping in centro nell'ora di punta. Aveva parcheggiato in un posto vietato e un vigile era arrivato subito di corsa dicendo «Non potete lasciare l'auto lì». Ma appena riconobbe che era lui, gli fece lasciare l'auto e i due andarono a fare shopping. Era una vera celebrità. Insomma, è chiaro perché la notte del 20 agosto 68 i cittadini di Praga, quando i sovietici invadono la Cecoslovacchia ed entrano con forza fino al cuore sacro della città, Piazza San Venceslao, la folla acclama Zátopek come suo portavoce, vogliono che qualcosa lui dica. E le sue imprese risalgono a 16 anni prima, ma lui è tuttora l'uomo giusto, il moderato, quello che può rappresentarli. Ma come ben sappiamo, insomma, nulla servì a nulla in quel terribile agosto del 1968. Insomma, Emil Zátopek cade in disgrazia perché si è esposto troppo durante i 7 mesi della primavera di Praga. Adesso deve pagare cara la sua indipendenza di pensiero, che è una cosa che lì non è tollerabile. I russi gli tolgono i gradi di maggiore, viene radiato dall'esercito come traditore. E cosa fanno per mortificarlo, per umiliarlo? Gli fanno fare lo spazzino per le vie di Praga, un eroe che fa lo spazzino. Ma la gente lo acclama, lo ama, il loro modo di stargli vicino è che lo aiutano a raccogliere l'immondizia. E allora il partito lo spedisce al confine tra le montagne, lo mandano a lavorare in una miniera di uranio lontano dalla moglie Dana e rimarrà 4 anni in quella miniera. Ascoltate ancora il racconto del suo biografo Richard Asquith. Dopo il 1968, con la primavera di Praga, non solo fu espulso dall'esercito e dal Partito Comunista, non solo fu spedito migliaia di chilometri lontano da Praga a lavorare in un posto orribile, ma fu bandito come eroe nazionale. Il suo nome scomparve dai libri, c'era uno stadio intitolato a lui e gli cambiarono il nome. La sua statua in città scomparve, divenne innominabile. Questo purtroppo succede nei paesi comunisti. Ho la sensazione che in patria non si sia mai veramente riabilitato. Ecco, queste cose io me le segnerei da qualche parte, perché a volte ho l'impressione che il mondo non se le ricordi, queste cose che succedevano nei paesi comunisti. Un nome che scompare dai libri, uno stadio intitolato a un uomo che improvvisamente cambia nome, una statua che non c'è più, e insomma, da eroe nazionale citato in tutti i libri, il maggiore dell'esercito Zatopek diventa un innominabile, viene sepolto vivo in una miniera di uranio. Verso la metà degli anni 70 gli viene concesso di rientrare a Praga, viene impiegato come traduttore al Ministero dello Sport, perché tra l'altro ricordiamoci che lui sapeva molte lingue, pare ne sapesse addirittura 8. Finalmente, alla fine degli anni 80, il regime di Protervia, il regime comunista, crolla e Zatopek riconquista la dignità nazionale. Nel 1998 viene premiato dal presidente della Repubblica Ceca con il Leone Bianco, che è l'onorificenza nazionale più importante, dopo una lunga, terribile malattia causata dalla permanenza nelle miniere di uranio. Emil Zatopek muore il 21 novembre del 2000. Pochi giorni dopo la sua morte, il 6 dicembre, il Comitato Olimpico Internazionale per il Fair Play conferisce a Zatopek il suo riconoscimento più prestigioso, la famosa medaglia Pierre de Coubertin, la medaglia del vero spirito sportivo, una medaglia della quale abbiamo già parlato, venne attribuita a Lutz Long, il saltatore tedesco che si dovette battere con Jesse Owen, al bobista Eugenio Monti. Insomma, è una medaglia che consacra non solo un grande atleta, ma un grande uomo. A seguito di questo riconoscimento viene alla luce un episodio della vita di Zatopek che era rimasto segreto, perché lui alle Olimpiadi di Helsinki del 52 aveva fatto un gesto molto grande, da grande uomo. Perché in quelle Olimpiadi c'era il figlio di un dissidente, un anticomunista, Sebastian Jungwirth, che quindi ovviamente in quanto anticomunista non aveva diritto a vivere e men che meno a correre, insomma non poteva certo andare a rappresentare il suo paese ai giochi olimpici. Bene, Zatopek ingaggia un braccio di ferro con la sua federazione: se non parte Jungwirth, non parto neanch'io. I dirigenti vengono messi alle strette, non possono privare il paese di Zatopek. Insomma, Jungwirth parteciperà a quelle Olimpiadi e Zatopek entrerà nella leggenda, anche se questo gesto andrà a sommarsi a tutti quelli che farà dopo e poi i conti gli verranno presentati. Ma c'è un altro aneddoto bellissimo di Zatopek, che nel 66 lui invita a casa sua a Praga Ron Clark, il corridore australiano, vi ricordate quello dell'episodio che abbiamo detto prima del divieto di sosta? Clark era un atleta molto particolare, perché continuava a stabilire record mondiali ma non vinceva le gare, era solo arrivato terzo a Tokyo. Era un cronoman che non riusciva a esprimersi in gara. Al termine della visita, Zatopek lo accompagna all'aeroporto e gli dà un pacchetto. Clark lo apre quando è in volo. C'è la medaglia che Zatopek aveva vinto nei 10.000 metri a Helsinki e il biglietto recitava: non è per amicizia, ma è perché te lo meriti. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e poi ci sono storie di persone che sono entrate nella leggenda, che hanno riscattato, riabilitato un paese e che in qualche modo hanno saputo volare anche malgrado la cattiveria di regimi totalitari che annientano qualsiasi cosa di umano e si imbatta nel loro terribile cammino. Zatopek ha saputo volare in alto e ha saputo diventare la storia. Ognuno di noi nella vita può volare in alto come il falco e il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure sul nostro sito www.radio24.it oppure venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, Twitter, Facebook, insomma lo sapete che se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.